se yo y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ci siamo chiesti tante volte quale sia il motivo per cui noi ci sentiamo confortati dalle scelte comuni. Qualcosa che appartenga soltanto alla nostra sfera di giudizio ci rende impopolari, rende difficile il confronto con gli altri. Quindi, immersi nel mito dell'uomo massa, ci sentiamo tutti perfettamente affrancati da dover prendere decisioni. Di questo parlammo in una puntata con Umberto Galimberti, che è andata in onda il 30 gennaio del 2009 e che questa mattina vi proponiamo. Non è che questa mattina io ambisca a ricevere milioni di telefonate, però mi piacerebbe e mi farebbe piacere che qualcuno in ascolto dicesse la sua su questo tema, che è abbastanza azzardato come proposta radiofonica. Oggi vorrei capire cosa accadrà quando finirà il mondo. Quando finirà il mondo non significa che scenderanno gli angeli dell'Apocalisse con la loro spada di fuoco e diranno chi sono i giusti e chi sono i dannati. Non è assolutamente questo, né il meteorite, né, come molti mi stanno suggerendo, l'ultima leggendaria e terrificante notizia della medusa eterna, la medusa che si ricicla quando sta per morire e diventa polipo. Sembra che in questo momento in rete non si parli d'altro che della medusa eterna. Ecco, noi siamo atterriti dalla medusa eterna, perché probabilmente non ci vogliamo porre domande su quello che accadrà del mondo quando il mondo non sarà più come siamo abituati a conoscerlo. Cosa significa? Significa che oggi diamo valore ad alcune realtà che non è detto che abbiano le caratteristiche della medusa eterna di potersi autogenerare all'infinito. Vediamo di analizzare nel corso di questa oretta in cui staremo assieme tre grossi punti attraverso i quali noi pensiamo che debba continuare ad essere sempre così. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita. Scegliete un mutuo a interessi fissi. Scegliete una prima casa. Scegliete gli amici. Scegliete una moda casual e le valigie in tinta. Scegliete un salotto di tre pezzi a rate ricopritela con una stoffa del cazzo. Scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina. Scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare. Alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoie in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi. Scegliete un futuro, scegliete la vita. Ma perché dovrei fare una cosa così? Io ho scelto di non scegliere la vita. Ho scelto qualcos'altro. Le ragioni? Non ci sono ragioni. Questo era l'inizio notissimo di Trainspotting, film che è del 96, quindi è datato nella alternativa, nella soluzione del protagonista Mark Renton, che si faceva di eroina come un pazzo e diceva io lo faccio perché è contro tutto questo, ed elenca quelli che sono i luoghi comuni del placido, quieto, tranquillo e amorfo vivere borghese. Ma oggi sappiamo perfettamente che anche semplicemente in pochi anni si è evoluta completamente questa alternativa bruciante, questa alternativa nichilista, questo eroismo dell'autodistruzione. Oggi l'alternativa a questo tipo di mondo, a questo tipo di società autoriflettente, non è esattamente l'uscita dal mondo violento o la dimostrazione autoannientante del fatto che si protesta facendosi un buco. È semplicemente trovare delle piccole fessure in cui insinuarsi in questo mondo e fare parte di questo mondo. Ecco, tutto questo oggi può essere sintetizzato in una notizia che questa mattina occupa i giornali, legata appunto alla polemica dell'estradizione di Battisti, terrorista, scrittore, filosofo, delinquente comune, dal Brasile all'Italia, che porta a due terrificanti conseguenze. L'una, quella paventata che non si faccia per protesta la partita Italia-Brasile, e l'altra, ancor più spaventosa, che la fattoria, reality show, che dovrebbe essere svolto appunto in una fattoria brasiliana, possa non essere fatto proprio per il caso Battisti. Questo apre una profonda riflessione sulla fine o sul cortocircuito della civiltà dei media. Il mondo che noi conosciamo è un mondo che vale in quanto rappresentato. Più è rappresentato, più ha valore. Più si passa attraverso la televisione, i giornali, il circuito integrato e più si fa parte della popolazione che conta. Beh, noi siamo convinti che questo mondo non sempre debba continuare. Questo signore, afflitto da tosse come il 90% degli italiani che abbiamo qui in studio, è l'amico Mario Abis. Buongiorno, buongiorno. Abis, amministratore delegato della Macno Consulting, che questa mattina, per la prima parte di questa trasmissione, ci aiuterà a riflettere sull'eclissi del mondo della comunicazione, del mondo dei media. Saremo ancora per molto tempo, secondo te Mario, secondo i tuoi indicatori, soggetti a questa sorta di imperativo per cui tutto il mondo descritto dal protagonista di Trainspotting continuerà a esistere finché la televisione, i giornali, il circuito integrato lo celebrerà? Ma gli indicatori, come dici tu, sono che vanno nel senso di dimostrare che questo tipo di relazione si sta trasformando e questo meccanismo evocato prima, per cui la società dello spettacolo corrisponde alla società dei media, vanno nel senso di appunto dimostrare che questa relazione si sta appunto affievolendo. Ci sono tante tipologie appunto di segnali. I primi sono gli indicatori proprio quantitativi, nel senso che la classica struttura dei mezzi di comunicazione di massa, prendiamo i giornali, ma prendiamo anche la televisione cosiddetta generalista, sono in una flessione rispetto alla lettura, rispetto agli ascolti, assolutamente straordinaria. E questo è il primo dato. Quindi non è più centrale la visibilità televisiva? No, ovviamente parliamo di processi che sono lenti, dicevo segnali non a caso, però se noi mettiamo insieme queste grandi agenzie di formazione della struttura dei mass media, vediamo che tutte linearmente tendono a cadere. Naturalmente dall'altra parte ci sono i nuovi, cosiddetti nuovi media, che non stiamo a farla troppo lunga, sono i media legati essenzialmente all'interattività, al digitale, la rete, la tematizzazione, adesso arriva il digitale terrestre, che non è tanto importante il fatto che siano dei media che consentono di creare dei propri ambiti privati, tra virgolette, di relazione, che si contrappongono ai media di massa. No? Sul digitale terrestre, se mi permette, oggi sul Corriere della Sera c'è un dossier di 2 pagine dicendo che in effetti laddove lo stanno provando sembra che ci siano grandi perplessità, è un mezzo vecchio, obsoleto, e poi tutta questa interattività. Il pubblico della televisione generalista non ha nessuna voglia di interagire col programma, ma vuole subire il programma felicemente. Sì, è vero, sono processi complicati e lunghi. C'è anche da dire che il pubblico, come tu sai, della televisione generalista è anche un pubblico che dal punto di vista demografico tende a spegnersi, no? Perché un pubblico essenzialmente anziano, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, quando sarà sottoterra tutto il campione della Nielsen che determina la televisione, cosa succederà alla televisione? Ecco, allora no, appunto, cosa succederà? Succederà che avremo di fronte tutta una combinazione di sistemi di media, quindi non di media centrali, collocati nell'ambito della creazione della società dello spettacolo, è un sistema di tante relazioni, di tante tecnologie, di tanti meccanismi che tutti insieme costituiranno delle alternative rispetto a quello che tu ricordavi all'inizio. E questo, se vuoi, è il processo sociale e tecnologico che è già in atto da tempo, avrà delle lentezze, avrà delle discontinuità, stop and go, eccetera, eccetera. Ma il fenomeno invece più importante non è tanto un fenomeno legato a quanto si consuma e si consuma nei media, ma è il valore di investimento ideologico, etico, psicologico che quella che una volta si chiamava l'opinione pubblica o il pubblico ha nei confronti dei cosiddetti media. Questo contratto di persuasione, efficacia, dominio, il famoso dominio alla Bertelard dei mezzi di comunicazione massi è definitivamente declinato. Tu pensa che una delle chiavi più forti del contrasto, dell'unica dialettica che è rimasta nella politica in italiana è portata dal fatto sul possesso dei media, sul fatto che il potere equivale a controllare i media, ma ci sta forse rendendo conto che in realtà il potere dei media ormai attiene a delle aree dell'opinione pubblica che non sono più efficaci, che non contano più. Sì, quei consumi che definiva con senso cinico il protagonista di Trainspotting sono le uniche cose che ancora sono controllate dai media, la marca del divanetto e la qualità dello spettacolo televisivo. Sì, È un processo molto complicato questo, ci sono tante cose da dire, lo voglio parlare per slogan ovviamente, però qual è il punto in cui si sta creando questa relazione sempre più debole, questo investimento sempre più scettico da parte della cosiddetta opinione pubblica nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa classici che sottendono questa centralità che dicevi tu? Innanzitutto il tema del vero falso. Questo è il punto fondamentale su cui si costituisce questa caduta, diciamo, di valorizzazione. L'idea è che ci si trovi di fronte a processi che sono fortemente falsificati, scarsamente credibili, scarsamente affidabili. È un meccanismo che si è sedimentato nel tempo, trova un suo tracciato specifico nell'informazione, ma molti, diciamo, contenuti che hanno spadroneggiato negli ultimi anni, pensiamo a reality show per esempio, hanno costituito delle categorie di falsificazione all'interno della relazione fra media e opinione pubblica che sono progressivamente hanno logorato questa relazione e questo investimento. Quindi un colosso si sta minando alle radici, cioè dai piedi d'argilla, come si diceva una volta. Esattamente. L'altra cosa che tu evocavi in maniera efficace, facendo riferimento alla polemica su Battisti, la partita sospesa, è il meccanismo dell'autoreferenzialità, cioè il fatto che i media ormai continuano a raccontarsi fra da loro, costruiscono storie tutte chiuse all'interno del loro sistema, con protagonisti che sono sempre gli stessi, con un dominio che è sempre autoregolato, e quindi ovviamente un'opinione pubblica, tra virgolette, quella che dicevo prima, che è già avvertita sul deficit di credibilità di questo meccanismo, viene ulteriormente estraniata da questo tipo di meccanismo di autoreferenzialità. Poi in particolare nel nostro paese, a questa un'osservazione che naturalmente ognuno può criticare, sembra quasi che l'opinione pubblica sia racchiusa nel parlare tra quattro amici, sono i 4, 5, 6 direttori di giornali che contano, sono i 7 opinionisti televisivi che contano, sono i 4 notisti quotidiani che dicono la loro salace battuta sulla realtà. Questo sembra che sia l'opinione del mondo, ma il mondo è da un'altra parte. Sì, ma infatti un'opinione pubblica sempre più anche raffinata nei meccanismi di governo di questa relazione con i media si accorge benissimo che è un gigantesco sistema spettacolare in cui i ruoli e i protagonisti sono sempre gli stessi. Ecco, vorrei fare una domanda al pubblico a questo punto, do il numero di telefono 800 24 0024. Quanto vi sentite di appartenere a quella sorta di essere definito uomo massa che tutti questi cambiamenti li subisce, o quanto voi cominciate a sentire proprio sotto pelle questo senso di reazione e questa tendenza a guardare oltre il mondo rappresentato come stanno rappresentando? 800 24 0024, vedo che Abis guardi l'orologio, quanto hai ancora di tempo? Sono le 10:20. Sì. Ecco, chiudiamo allora la tua parte, che ho già pronto il secondo ospite con cui analizzeremo il secondo versante di questa nostra indagine. Il declino del mondo della rappresentazione, il declino della visibilità come grande valore. Oggi visibile significa comunque attendibile, significa referenziato, significa persone con oggettive qualità per cui il suo parere conta. Durerà in eterno questo? No, non durerà in eterno, nel senso che se questo circuito che abbiamo cercato prima di delineare, ovviamente i processi sono lenti e complicati, dello spettacolo autoreferenziale dentro i media comincia a cedere, anche la grande visibilità che è il portato di questa relazione, no? I grandi, diciamo, si vede come i media attraverso questo meccanismo creano grandi protagonisti, grandi attori, grandi soggetti dominati. Ecco, questo meccanismo tutto chiuso ovviamente declinerà come valore. Vero o falso, la falsità e la visibilità spettacolare vanno insieme, e quindi ci sarà progressivamente un cedimento di credibilità, di valorizzazione di questo processo, diciamo, della spettacolarità in quanto appunto valore. Io penso che ci sia, così come cade la società cosiddetta di massa, noi andiamo verso una società sempre più complicata, complessa, di soggetti, interessi, appartenenze, che corrisponde anche alla complessità dei media, quindi le linearità tradizionali cadono. Ecco, a fronte di questa trasformazione ci sarà anche una valorizzazione, se posso dire, di circuiti più riservati, più interni, più intimi dell'opinione pubblica. Diciamo una parola che sembra una bestemmia: emergeranno le elite. Emergeranno tante elite trasversali costituiti su aggregati di sistemi di interessi, ovviamente meno ideologiche che nel passato, ma sistemi di interessi, di bisogni, di aggregazioni anche nel territorio, per esempio. Basta pensare oggi alle città come si trasformano in soggetti regolatori di queste formazioni di circuiti sociali. Sì, soprattutto quando si scopre che c'è una lobby dei semafori truccati per prendere più multe. Insomma, nella complessità sociale le articolazioni potranno essere tante. Però la cosa che ci interessa vedere è che a fronte di questa caduta dell'linearità media e bassa, quindi tanti soggetti che fanno quella che si chiama la complessità sociale, ci saranno anche nuovi valori che cresceranno. Io penso che per esempio il valore della riservatezza, della segretezza in qualche modo, del particolare, emergerà in maniera molto significativa. Grazie Mario Abis, ti lascio perché so che tu adesso hai un impegno e introduco il secondo amico osservatore, Maurizio Ferraris, buongiorno. Buongiorno. Maurizio Ferraris, professore di filosofia teoretica all'Università di Torino, autore di un libro, Un'Ikea di Università, Raffaello Cortina Editore, che è un libro che esce integrato e rinnovato in questi giorni, ma un libro che avevi scritto nel 2001, in cui vedevi come grande paradosso l'università trasformata in una sorta di supermercato per soddisfare bisogni anche estetici, anche di piacevolezza di vita. Cosa è diventata l'università? Abbiamo visto il mondo dei media è pronto al suo tracollo, la visibilità sarà un valore sempre meno costantemente perseguibile, ma anche il valore del titolo di studio obbligatorio, l'università per tutti. Ho letto su biografie di alcune veline che rappresentano il punto più alto della visibilità televisiva e quindi dell'effimero e sta studiando al CEPU per prendersi una laurea. Eh sì, questo è interessante perché fra l'altro ora si dice veline, in realtà nel libro, quando l'avevo scritto nel 2001, dicevo ancora vallette, che era la vecchia dizione. Questo spiega come fra l'altro nel mondo del media le cose cambiano con una rapidità tale che quasi non vale la pena di studiarle. E la cosa paradossale invece di quella sciaguratissima riforma dell'università che è iniziata 10 anni fa e che non è ancora finita, è consistita nel tentativo un po' confuso e convulso di portare l'università, si diceva, al passo coi tempi e in realtà di metterla in linea con dei fenomeni come per esempio la società dello spettacolo, la società dei mass media, che come si sentiva un momento fa e come in effetti è un po' sotto gli occhi di tutti, stava declinando. Cioè la cosa paradossale è che un luogo tradizionalmente deputato dalle facoltà umanistiche alla produzione della cultura laica, quindi in definitiva anche alla costruzione di un'altra cultura che passa al di là delle contingenze del momento, che dà delle formazioni di lungo periodo, è stata in molti casi, per fortuna ovviamente i processi sono lenti, anche le decostruzioni dell'università sono lente, è stata smontata e smobilitata per metterla al passo con, come dicevo prima, qualcosa che in fondo già 10 anni fa rivelava i suoi limiti, comunque rivelava la sua eterogeneità rispetto alla cultura e che adesso declina. Cioè in sostanza la cosa paradossale è che noi ci troviamo adesso con l'idea che in fondo cosa sarà la cultura? Sarà quello che si dice al Grande Fratello? Si fanno dei corsi sul Grande Fratello, si studia questo, però uno si chiede ma perché uno deve studiare questo? Infatti tu Maurizio inizi questa edizione del tuo libro prendendo lievemente e tenacemente proprio per il culo due studenti di scienza della comunicazione. Io ho sempre sostenuto che la comunicazione non può essere una scienza perché si sovrascrive continuamente. Vedi, è cambiato anche il termine valletta in velina, tu pensa quanto cambi velocemente ciò che noi chiamiamo mondo della comunicazione, mondo di cui stiamo raccontando fra l'altro la vicina eclissi. Quindi l'università di massa corrisponde alla necessità di un'estetica di massa confezionata dalla televisione. Ma corrisponde soprattutto a una specie di desiderio ingenuo, almeno mi auguro che sia quantomeno ingenuo, di fare dell'università il semplice raddoppiamento della vita, mentre nell'università si dovrebbe dare esattamente ciò che noi nella vita non abbiamo, ciò che la televisione non ci dà, ciò che in tutto sommato non ci dà neanche internet, ciò che le conversazioni al bar non ci danno, cioè quelle cose di lungo periodo e anche difficili, perché c'è indubbiamente una difficoltà nello studiare Kant piuttosto che il Grande Fratello, che però ci danno, quel che si dice, una marcia in più o comunque uno sguardo diverso, non totalmente schiacciato sulla contemporaneità. Senti, Abis ha fatto una sua piccola profezia dicendo che secondo lui ci sarà l'emergere di alcune invisibili ma consistenti aggregazioni, quasi delle élite che si contrapporranno a questa sorta di visibilità e sorriso e presenza sui media come valore. Nel campo dell'università puoi fare una tua azzardatissima profezia? Cosa ci sarà dopo? Ma la mia azzardatissima profezia è che nel medio periodo ci sarà un restringimento dell'università, nel senso che risulterà abbastanza chiaro ai più che fare una pseudo facoltà tanto vale non farla, quindi ci sarà un po', secondo me, un restringimento. Bisogna ancora vedere, certo, fin tanto che una laurea sarà considerata indispensabile anche per fare l'Avelino Valletta, magari si continuerà a fare università, però credo e soprattutto auspico che si dia di nuovo fiato a delle cose tradizionali e di fondo. Fra l'altro, messi in questi termini, sembra che io sia un trombone che rievoca l'università di 50 anni fa. Non saresti qui a parlare se tu fossi così. Ti saluto, Maurizio Ferraris. Melog 2.0. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Riprendiamo con il finale del film Trainspotting, avendo aperto con l'inizio, quelli che erano considerati con ironia i valori contro i quali protestava il protagonista di questo film, bucandosi e dedicandosi all'eroina, vengono poi recuperati come punto d'arrivo, come alternativa e come scelta di vita. Beh, sono passati parecchi anni e siamo a valutare, come abbiamo iniziato a fare in questa trasmissione con Mario Abis e Maurizio Ferraris, il probabile segnale o la profezia che ancora non riusciamo a cogliere del tramonto dell'uomo massa. L'uomo massa è colui che, su cui ironizzava appunto Mark Renton, protagonista di Trainspotting, e che poi alla fine ha abbracciato come miglior soluzione di vita. L'uomo massa è quello che ha determinato la società dello spettacolo, è colui che ha la massima affermazione e consolazione del suo stato nel fatto che la televisione promette che ci sarà posto anche per lui, che nel grande mondo rappresentato dai mass media, dalla televisione, dai circuiti integrati di visibilità, c'è posto anche per lui, e il reality show è l'ultima, e forse proprio come fanalino di coda ne preannuncia la fine, è segnalazione del fatto che esiste un cortocircuito. Non c'è più eccellenza nell'essere rappresentati nei media, ma chiunque può essere rappresentato, e se può essere rappresentato chiunque, finirà a un certo punto la vanagloria, la distinzione dell'essere rappresentati. Poi con Maurizio Ferraris abbiamo parlato dell'università vista come l'IKEA. L'IKEA è il mondo in cui sono presentati i realizzabili per tutti sogni di distinzione per gusto, per scelta culturale. All'IKEA possiamo comprare un servizio di bicchieri che faccia sembrare la nostra tavola una tavola imbandita con una preziosa scelta di design, ma in realtà sono i piatti dell'IKEA. Chiunque viene a casa nostra dice: che belli quei piattini grigi, succede a me, sono i piatti dell'IKEA. Improvvisamente ci si ritrova nella massificazione della propria scelta di gusto, e l'università sta diventando qualcosa del genere. Le veline vanno a fare i corsi del CEPU perché, oltre tutte le operazioni di intervento chirurgico per appartenere a un modello fisico artificiale, devono avere anche questa ultima gratificazione di avere un titolo di studio, ma un titolo di studio uguale per tutti non conterà più nulla. Entriamo adesso nel vivo delle segnalazioni possibili nella società degli uomini di questa possibile ansia di cambiamento, desiderio di cambiamento o possibilità di uscire dal dominio di ciò che vale per tutti e quindi è un valore positivo. Ho al telefono il professor Umberto Galimberti. Professore, buongiorno. Buongiorno. Filosofo e professore di filosofia della storia all'Università Ca' Foscari. I suoi ultimi libri sono L'ospite inquietante, Il nichilismo e giovani, Feltrinelli, Milano 2007, poi ce ne mi sembra anche un altro, in questo momento non ce l'ho qui segnato. Poi quello vorrei fare con lei, professore, è un percorso piuttosto arduo. Capire innanzitutto da quando è cominciato a diventare un valore appartenere al pensiero di massa. Ma penso che attraverso i processi di estensione della democrazia naturalmente tutti quanti finiscono con l'avere diritti, e questa è una cosa buona. Se però i diritti consistono nell'apparire in televisione o nell'andare a frequentare i corsi del CEPU, che sono dei luoghi malfamati dal mio punto di vista, nel senso che si acquista una laurea solamente frequentando l'università seriamente, sentendo le lezioni, imparando il linguaggio, applicandosi negli studi e non certo attraverso quelle operazioni di paracultura rappresentate appunto da queste scuole, e allora questi sono gli effetti degenerativi del processo positivo della democrazia, che dà accesso a tutti di partecipare a qualsiasi cosa. Allora quindi probabilmente anche quella che viene chiamata la società dello spettacolo, il valore di essere visibili, è un nefasto esito della democrazia, che comunque è la miglior forma che oggi conosciamo perlomeno per gestire la società? Sì, dobbiamo considerare che ogni valore ha la sua ombra. Allora, anche la democrazia ha la sua ombra. Ora, se consideriamo che l'accesso ai media, agli apparati televisivi, radiofonici, giornalistici, viene assunto come un valore nella misura in cui vengono tutti quanti resi in grado di potervi partecipare, fa sì che la gente sposta gradatamente la propria identità dall'essere all'apparire. E allora che cosa succede? Che il bisogno frenetico di apparire denuncia un vuoto d'essere spaventoso, un vuoto di identità che probabilmente la televisione non è in grado di colmare. Questo però ha creato anche la costruzione dell'industria che costruisce le macchine per meglio apparire. Abbiamo accennato con Ferraris alle facoltà di scienza della comunicazione. Lei è d'accordo che la comunicazione può essere scientificizzata, può diventare una scienza, o è un percorso talmente improbabile che si sovrascrive continuamente, che è un po' difficile scrivere in un libro una teoria della comunicazione, perché probabilmente mentre la si scrive già è cambiata? Non solo per questo, ma io penso che le facoltà di scienza della comunicazione sono dei grandi imbrogli, dei grandi inganni. Probabilmente servono esclusivamente per quelle persone che, non essendo in grado di impegnarsi in discipline scientifiche di cui in Italia c'è una grande carenza, penso ad esempio alla biologia, alla biochimica, all'ingegneria, eccetera, e allora pur di avere una laurea si iscrivono a scienza della comunicazione. Ma la comunicazione non è insegnabile. Ci sono delle arti che sono insegnabili, ci sono delle arti invece che uno ha innate, lo diceva già Platone. E allora che cosa succede? Che queste facoltà servono solamente per raccogliere tutti coloro che non sono in grado di impegnarsi in studi seri, in modo tale che paghino le tasse e finanziano le università. È lo stesso fenomeno che abbiamo assistito 20 anni fa con le facoltà di psicologia. Adesso abbiamo un mondo pieno di psicologi sostanzialmente disoccupati e in una condizione di deprivazione di identità, perché non sanno più cosa devono fare e cosa possono fare. Però se mi permette, professore, visto questo è un po' il mio pallino, qui c'è una fattispecie ancor più perversa, ancor più interessante, che chiude un po' il cerchio delle nostre discussioni. Le facoltà di scienza e comunicazione servono per tutto quello che lei ha detto, per creare un velleitario semplice, apparentemente molto legato all'esperienza quotidiana, percorso universitario, a persone che non vogliono impegnarsi in maniera più profonda, più articolata. Ma servono anche a un'altra cosa, servono a creare una classe di docenti, che in realtà sono gli speaker dei telegiornali, i professionisti della televisione, le annunciatrici della TV, quelli che si vedono presentare telequiz, e danno a loro questa sorta di affrancamento o di patentino di nobiltà della loro professione, permettendogli di insegnare a dei banchi universitari quello che per loro magari è un percorso a cui si arriva non attraverso un esercizio costante, ma attraverso alcune fattispecie non disprezzabili, come il sapersi muovere nella società del potere, sapersi rendere affabili e intelligenti, saper essere bravi a vendere bene con le poche cose che si hanno a disposizione. Quindi c'è questa doppia efficacia: dare visibilità a dei docenti che non hanno nulla da insegnare e dare illusione di poter imparare qualcosa a una classe di allievi che a me non andrà da nessuna parte. Sottoscrivo parola per parola quello che lei ha detto. Finché l'università riveste un ruolo mitologico, l'università è fatica, l'università è applicazione, l'università è studio. Basta andare nei laboratori scientifici e vedere che cosa vuol dire fare l'università, stare 10 anni in un laboratorio, applicarsi 14 ore al giorno, compreso il sabato e la domenica, perché gli esperimenti scientifici non hanno le cadenze settimanali. Ecco, l'università, finché viene mitologizzata, io vedo ogni tanto nelle carte intestate, io non ho carte intestate, ma vedo nelle carte intestate che mi arrivano, qualcuno che scrive docente all'università, poi magari parlando insieme, ha un docente a contratto, cioè lui nella sua vita ha avuto 30 ore di insegnamento, ma questo gli è sufficiente per metterlo sulla carta intestata. Ora l'università va demitologizzata per quanto riguarda i titoli che offre, le chance, la visibilità, è assunta invece come un luogo di grande serietà e di grande lavoro, dove non c'è nessun vanto a insegnare lì invece che altrove. Bisognerebbe proprio demitologizzare questo concetto. Forse a questo si arriverà attraverso l'eliminazione dell'uso legale della laurea. Potrebbe essere, professore, poi ci sentiamo con più tranquillità fra un minuto dopo l'informazione del traffico, che corrisponde un po' a quella necessità che avevano quegli imprenditori che si erano fatti con le loro mani nel dopoguerra di essere chiamati commendatori, o peggio ancora di acquisire una generazione precedente un titolo nobiliare che in realtà non corrispondeva a un lignaggio di sangue. 800 24 00 24, ci siamo interrotti, stavo parlando con il professor Umberto Galimberti. Professore, è nuovamente in linea? Sì. Ecco, ma c'è stato un momento particolare in cui questa idea della massa, che oggi vediamo in senso negativo, è alla fonte di ogni degenerazione, però ha contato molto. Le masse hanno mutato il senso della storia un secolo fa, un secolo e mezzo fa. Non era poi sempre stato qualcosa di fortemente distruttivo per i valori della società appartenere alla massa? Quando è stato il cambiamento per cui massa è diventato qualcosa che associamo appunto a reality show o alle velleità di insegnare all'università? Ma dunque, i fenomeni di massa si sono manifestati innanzitutto in modo inquadrato, organizzato in modo dittatoriale, sotto i fascismi, sotto i comunismi, tutti quanti abbiamo in mente le parate che i programmi televisivi che si occupano di storia ci fanno vedere. Poi, passato quel periodo, con l'avvento della democrazia in Europa e con la partecipazione di tutti alla vita sociale, abbiamo avuto un pronunciamento significativo di ciascun individuo che trovava nella sua appartenenza o alla classe operaia, alla classe impiegatizia, alla classe dirigente, una possibilità di espressione, di manifestazione. Questi sono gli aspetti positivi della democrazia. Poi dopo questa massa ha voluto tutta quanta insieme laurearsi, ha voluto tutta quanta insieme arrivare a quel livello, forse necessario in un certo senso, perché la società è diventata complessa, perché tu vieni preso in considerazione solo se sei laureato, anche per fare un lavoro dove la laurea non è richiesta. E allora, elevando sempre di più l'ordine delle richieste sociali, è chiaro che tutti corrono a conquistarsi una laurea e per fare quelle cose che una volta facevo ragioniere, oggi per fare le stesse cose che un ragioniere faceva a 18 anni bisogna essere laureato in economia e commercio, aver fatto un master, incominciare a lavorare a 30, entrare nel precariato, e la laurea diventa una sorta di punteggio, di chance, di curriculum. Il curriculum è diventata la nostra identità. Non so cosa mi sorprende, professor Galimberti, che questo pensiero era racchiuso in un libricino considerato fortemente reazionario, che io ricordo a mente non trovo più a casa mia, che è l'eclisse dell'intellettuale dell'Emir Zola di parecchi decenni fa, in cui diceva questa frase fulminante: l'uomo massa, parlando come un momento fatidico del declino della civiltà intesa appunto secondo i suoi parametri come riferimenti metafisici, contatto con il mondo dell'assoluto, quando il fattorino ha gli stessi gusti, le stesse letture, le stessi desideri del capo dell'industria per cui lavora. Prima di Emir Zola queste cose le aveva già detto Platone. perché la cultura di massa fa sì che gli uomini desiderano, diceva Platone, due punti aperte le virgolette, le belle cose che gli vengono fatte vedere, chiuso le virgolette. E allora che cosa succede? Assistiamo ad una sorta di omologazione del sociale, dove il sociale serve solamente come luogo in cui i mezzi televisivi, radiofonici e di stampa sondano i vari pareri, di massa appunto, e attraverso questi si viene a pilotare la politica, la quale a questo punto non governa ma asseconda. Questi sono gli effetti perversi della cultura di massa. Certo, questo forse comincia a spiegare un po' oggi anche la difficoltà a rappresentare delle polarizzazioni del campo di ideologia, perché chi onestamente si pone questi problemi trova anche delle difficoltà a trovare dei punti di riferimento storici, letterari, ideologici, ma anche concreti nella vita di tutti i giorni. E soprattutto la perdita delle differenze. Oggi viviamo in una sorta di marmellata dove è molto difficile percepire che cosa vuol dire essere di destra e cosa vuol dire essere di sinistra. Si sono persi i valori, per esempio non so, la destra dovrebbe difendere una sorta di individualismo, mentre vedo in Italia una destra che lavora con le masse alla grande. La sinistra dovrebbe rappresentare dei fenomeni di solidarietà, di cui forse non si vede neanche più il lumicino. E allora questi sono effetti negativi dei fenomeni di massa. Se la politica incomincia ad assecondare i gusti che sonda, e allora automaticamente la politica non governa e già se ne vedono i disastri. Noi siamo qui per capire cosa verrà dopo. Questa è la lettura della contemporaneità che abbiamo attorno, però siamo ansiosi di riuscire a vedere cosa verrà dopo. Sentiamo un attimo di immergerci un attimo, se no facciamo una trasmissione soltanto elitaria con quella che è la massa degli ascoltatori. Franco, si sente offeso se dico che fa parte della massa, facciamo parte della massa. È un termine negativo secondo lei? Sì, infatti io volevo dire che io stesso, anche senza volerlo, mi sono fatto influenzare da te, nel senso che io non avrei mai preso un computer se non era per te. Ho voluto iscrivermi a Facebook solamente per poter entrare in connessione con te. Quindi a tuo modo anche tu, io ho voluto far parte della massa anch'io, iscrivendomi a Facebook su un tuo suggerimento. No, scusami anche... Franco, se permetti non mi prendo questa. Io quando suggerì di iscriversi a Facebook era un anno e mezzo fa, e quindi era una scelta di avanguardia allora, oggi è una scelta di massa. Per questo si sovrascrive così velocemente l'attenzione alle nuove maniere di espressione e di comunicare, che oggi certo è una scelta di massa. Oggi sono collegato a Facebook e mi stanno scrivendo di tutto e di tutti, capito? Quando cominciamo a farlo un anno fa era una cosa che ci dicevano siete pochi pazzi e isolazionisti. Io do delle indicazioni secondo quella che è la mia esperienza. Beh, a parte queste scelte legate al piacevole ascolto di questa trasmissione, lei è convinta che essere chiamato uomo massa sia ancora qualcosa che rappresenta comunque un valore, oppure è semplicemente dire ecco vedi, sei qualcuno che si adegua a quello che è lo spirito del suo tempo e non ha una capacità di razionalizzare quello che è la propria individualità? Secondo il mio punto di vista, essere uomo massa oggi è una costrizione. Per esempio sul lavoro, se non sei uomo massa, purtroppo non fai strada, non fai carriera. Questo è il mio punto di vista. Quindi ancora un valore. Adeguarsi significa far parte di un valore. È un valore soprattutto nella regione in cui io vivo e lavoro, che è il Veneto. È un grande valore. Quindi è una regione in cui bisogna adeguarsi a una esteriorità condivisa da tutti per poter sopravvivere e galleggiare. È chiaro. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto Galimberti, d'accordissimo, ha fatto un'analisi fantastica. Tutto nasce, ci si chiedeva quando nasce il fenomeno. Nasce dalla rivoluzione industriale, perché siamo passati dalla rivoluzione industriale attraverso due guerre importanti verso il commercialismo sfrenato. Tutto è diventato una funzione commerciale. E chi era il volano del commercialismo? I mass media. Il gioco è stato semplicissimo. Quindi inevitabilmente bisogna ripensare assolutamente tutto il sistema, ma è un fatto eminentemente culturale che può riguardare soltanto l'elite. L'elite deve arrivare attraverso una questione morale seria che non porti avanti questo bluff pauroso e portare la gente verso una reale riflessione sul proprio io e sui propri valori fondamentali. Questo è una necessità. Ha detto un punto fondamentale. Allora, professor Galimberti, abbiamo ancora 3-4 minuti e su questo vorrei riflettere. Siamo arrivati alla fine della trasmissione alle stesse conclusioni a attraverso cui abbiamo analizzato la società dei media assieme ad Avis. Avis dice che emergerà comunque dal messaggio collettivo di apparire bello, quindi il paradiso per tutti, promesso per tutti, la vera promessa di trascendenza, il paradiso dell'accesso alla televisione. Quindi lui dice: verranno delle elite invisibili, delle persone che fanno di un valore ciò che oggi viene considerata l'estrema sfiga, quindi non apparire. Quest'ultimo ascoltatore sembra invocare l'elite. Noi abbiamo parlato di democrazia e di aspetti, di lati oscuri o riflessi negativi della democrazia, e improvvisamente viene fuori l'idea dell'elite. Questo non può essere qualcosa di rischioso? E l'ultimo ascoltatore ha detto una cosa molto importante. Dal momento che il mondo è sostanzialmente regolato dalla pubblicità, lo sappiamo tutti, per esempio che i giornali riescono a sopravvivere non perché vendono le copie, questo incide sul 25% del loro fatturato, ma vivono sulla pubblicità, e infatti adesso sono molto in crisi per via della carenza della pubblicità. E la pubblicità da che cosa deve fare riferimento? Deve fare riferimento ai gusti delle masse, gusti indotti, diciamolo, perché vale sempre la frase di Platone, che noi desideriamo le cose belle che ci sono fatte vedere. Ecco, e allora l'elemento pubblicitario, nella misura in cui diventa egemone, allora automaticamente la massa diventa un valore, come peraltro diceva il primo interlocutore, il quale però faceva notare come per lavorare bisogna essere uomo massa. Dice anche una verità, perché nel mondo della tecnica il valore supremo non è la creatività, l'individualità, ma la sostituibilità. Cioè, alla tecnica interessa che se io mi ammalo, se sono di cattivo umore, se sono una donna e resto incinta, il mio problema, il problema dell'apparato è di sostituirmi velocemente, per cui si strutturano dei mansionari molto elementari in modo da facilitare questa sostituibilità. E allora uno si deve adeguare a questo, e l'unica maniera per adeguarsi è quella di diventare sostanzialmente massa. Infine, per quanto riguarda Facebook, lì abbiamo proprio il sintomo che uno ha bisogno di far vedere la sua faccia, perché nella dimensione della massa uno ha perso la sua identità, e allora la recupera in modo virtuale attraverso questi collegamenti. Ma proprio questi collegamenti dicono quanta carenza di individualità, quanto bisogno di sé e di essere riconosciuti esiste nel fenomeno di massa. Lei vede un luogo fisico, storico, geografico, reale in cui si stia formando un'elite? Ma le elite nascono sempre dalle masse. Nietzsche diceva che per avere un genio bisogna avere una cultura molto diffusa nelle masse. Ecco, purtroppo noi abbiamo una diffusione enorme di lauree a cui non corrisponde nessuna cultura, abbiamo una diffusione enorme di titoli a cui non corrisponde nessuna competenza, e allora là dove non c'è una base culturale molto estesa è molto difficile che emerga un'elite. E anche qui in Italia lo sentiamo con estrema chiarezza qual è l'elite italiana. Ecco, abbiamo ancora delle persone molto anziane che sono nate in contesti di grande studio, di grande applicazione, ma nel mondo giovanile o della media età io non vedo l'insorgere di elite, e di cui avremmo sostanzialmente molto molto bisogno. Grazie professor Galimberti, ringrazio Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni. E per le persone anziane esiste una legge natura, per i giovani emergenti esisterà forse qualche chance, ma questo è tema di un'altra trasmissione. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog 2.0.